benché vinto e sconfitto, perfide stelle, io son farnace ancora. Di Mitridate il fiero ha in pugno ancora, di Mitridate il brando ha in seno ancora, di Mitridate il core. Per lacerare i lauri in sulla chioma, la superba Roma risorgerà un nemico ancor più crudo, ceneri anche sepolte e spirito ignudo. Io consorte, io te, arresta, arresta i piedi. Non ami ben, se l'onor mio non ami. Amo sì l'onor tuo, ma mi spavento l'orror dell'imminente alto perigo. Dove più di perigo e più di gloria. Fanne dunque crudele la scendaria del vincitor superbo, la sposa desolata e l'infelice. Questa ciara fatal prendi regina e sovra adesso giura eseguir quella legge uscirà dal mio labbro. Eccomi pronta! La tiranna del mondo può ancora esser vinta, ma se l'empia fortuna idolatra di lei per lei pugnando farà che sul mio capo l'aquila dominate alzi nel volo. Nel cor del figlio, indi nel tuo, tu questo ferro immergi e l'indegno servaggio esso vi sciolga e l'ingiuria del ferro il ferro tolga. Due gran prove mi chiedi, signor del mio coraggio, una è degna di me perché son moglie, l'altra è indegna di me perché son madre. Anch'io son padre e del comando, a noi questo nome non toglie l'alta necessità operar da grandi. Torna tosto in città, Tadini, addio. Con quest'amplesso impegno, d'ubbidienza tua, servi alla legge che giurasti al mio amor, alla mia gloria, e pensa che consorte di farnace non sei, se non sei forte.